Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, bilancio complessivo del turno di Coppa per quanto riguarda le squadre italiane, 2 vittorie, 2 sconfitte. Pratica risolta per Inter e Juventus, anche se non ancora formalmente, ma dal punto di vista sostanziale sì. Qualificazione ancora possibile per la Roma, improbabile a questo punto per la Fiorentina. 53 gol in 2 serate, molto sbilanciati, 36 martedì e meno della metà ieri sera, 17. Nonostante per esempio i 5 gol fuori casa del Barcellona. Altre curiosità tra poco con il riassunto e il commento della doppia giornata, adesso quello dolente di Spalletti dopo una partita in cui la Roma certamente aveva fatto poco, forse nulla per vincere, ma si era difesa in maniera intelligente, applicata, in maniera persino anomala rispetto alle sue caratteristiche di fondo, e invece poi ha perso, forse anche immeritatamente. Sentiamo Spalletti. Dispiace perché i ragazzi si sono impegnati molto, hanno giocato una buona partita, attenta, continua, dove non hanno concesso niente al Chelsea e dove probabilmente in 2 o 3 occasioni siamo ripartiti molto bene, abbiamo gestito anche molto bene, ecco, potevamo creare poi l'opportunità per prenderci il vantaggio. Bisogna accettarlo, però dobbiamo essere poi abbastanza lucidi da poter valutare che questa è la strada corretta da seguire. Questo è vero, la strada giusta sembrerebbe aver imboccato Adriano anche dal punto di vista dei comportamenti dopo la strigliata della scorsa settimana. È stato l'uomo partita dell'Inter ieri sera, e vittoria con il minimo sforzo, non particolarmente brillante, ma insomma giusto quello che serviva. Sentiamo per l'appunto il commento del protagonista, Adriano. Cerco di fare sempre durante la settimana dei buoni allenamenti per trovare quello urchi, no? Diciamo così. Però sono vicino e sono molto contento che le cose stanno andando così bene. Sì, a me mi piace giocare in quel ruolo lì, di magari venire a prendere la palla e venire da dietro, perché mi piace fare 1-2, anche io e Ibra ci troviamo benissimo così, e penso che è meglio per noi due. L'argomento che tiene banco da un paio di giorni a questa parte, e ne abbiamo già ampiamente parlato ieri, ma ci torniamo oggi dal punto di vista del costume, è quello di Beckham. In particolare c'è una leggera frenata, mi pare, dell'amministratore delegato, un breve frammento che possiamo ascoltare. Aspettiamo un attimo con questa vicenda Beckham. D'altra parte lo dice, c'è anche un film che è Sognando Beckham, lasciamo sognare i tifosi, ma nulla ancora è stato fatto. I tifosi, per la verità, stanno sognando entro certi limiti. Chi già sta sognando sono gli stilisti, perché non credo sia un caso che firma addirittura un editoriale di Benvenuto Giorgio Almani sulla Gazzetta dello Sport e ne firmano un altro, Dolce & Gabbana, sulla Stampa stamane. In genere sono i tecnici che danno appunto il benvenuto alle grandi star. È evidente già da questo, ripeto, da questo ingresso, che siamo in un'operazione di marketing, prima ancora che eventualmente in un'operazione calcistica. Questo sarà il titolo della seconda parte della trasmissione dopo l'intervallo sulla borsa, perché anche il Sole 24 Ore stamane se n'è occupato con numeri, cifre e valutazioni. Il ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi. Pensavo, ascoltando con attenzione le tue parole, che gli stilisti solitamente non firmano editoriali ma comprano tante pagine di pubblicità. Certo. Che solitamente interessa. E tu vuoi dire che quindi che le grandi accoglienze mediatiche a Beckham, soprattutto su alcuni giornali tipo quelli citati, nascondono tra le pieghe questo concetto? No, no. Lei è fortemente malizioso, io non ho detto certamente questo. Certo. Comunque sono due benvenuti che poi leggerò, ma posso anche leggere subito. Giorgio Armani scrive: che hanno per il Milan, prima Ronaldinho, poi dall'Inghilterra ritorna Shevchenko e adesso in diretta da Los Angeles David Beckham. Beckham. Aggiungiamo Kakà e sembra di sognare. E dei gioielli del Milan tre sono personaggi Armani, Sheva, Kakà e Beckham. Un gruppo stellare e non soltanto in campo, perché sarebbero l'orgoglio di un red carpet da divi quali sono, però molto più simpatici. Un tempo il benvenuto ai grandi assi stranieri lo dava magari Gianni Brera, adesso lo dà Giorgio Armani, oppure Dolce Gabbana, che scrivono sulla Stampa: sarà come un raggio di sole in un momento piuttosto delicato per l'economia italiana. Avrà un grande impatto mediatico, il suo modo di vestire farà tendenza e anche dal punto di vista sportivo ci saranno conseguenze importanti, allo stadio andranno più persone. Io credo che con la recessione che purtroppo si profila, mi immagino torme di italiani che affollano i negozi di abbigliamento di Dolce Gabbana per andare a vestirsi come Beckham. Bisognerà mandarli fuori a spinta. Sì, credo. Certo. Torniamo al pallone. Il pallone, perché questo al momento non sembrerebbe molto, molto pallone. No. Torniamo al pallone. Dicevo in apertura, 53 gol in due sere, molto sbilanciati, 36 la prima e meno della metà, cioè 17 la seconda. Mi piacerebbe che una rubrica che avevamo varato per una breve stagione televisiva di un paio di anni fa su Sky, si chiamava Chi ha sbagliato, era un omaggio a Rocco e un omaggio alla scuola difensiva italiana, e cioè al fatto che insomma, una volta si difendeva in maniera un pochino più spietata di quanto non accada oggi. Se tu dovessi fare un conto di quei 36 gol della prima sera e magari di alcuni 17 di ieri, quanti erano gol merito degli attaccanti e quanti invece demerito dei difensori? Guarda, a questa domanda rispondo con un grosso modo: il 70% dei gol di martedì sono dovuti ad abbenaggine di portieri o difensori, fatto salvo un paio che sono abbastanza irregolari, tipo quelli di Berbatov nella gara tra Manchester United e Celtic. Se andiamo a vederli tutti insieme, e però in ossequio e in onore del verbo rocchiano, del chi ha sbagliato, dobbiamo anche dire questo, che il chi ha sbagliato era la ricerca dell'errore non particolarmente evidente, cioè dell'errore magari a centrocampo, dell'errore in fase di disimpegno. È chiaro che in un filmato breve, il gol della Juventus di Amaury, che poi è una deviazione di Heinz, ma diamolo ad Amaury, è un bel cross di Nedved, è un bel colpo di testa di Amaury e c'è un po' di sfortuna da parte della difesa del Real Madrid. C'è però un errore colossale di Pepe, che in fase di rilancio regala il pallone alla Juventus. Certo. Basta prendere il filmato tre secondi prima e tutto sommato si vede abbastanza. Sì. Però se una partita che ha fatto specie, quella del Lione, dove ci sono stati due gol bellissimi, che sono quello di Benzema nel secondo tempo, sì, e quello di Keita sul 2-0 per la Steaua, sì. Va detto che il Lione ha preso tre gol assurdi, tre gol uguali. In fotocopia proprio. Fotocopia, un numero impressionante di gol di testa, tra l'altro in entrambe le giornate. E, insomma, onestamente, qualche errore dei portieri, ma tantissimi, tantissimi errori dei difensori. Cioè, anche il gol del Real Madrid, che è un bel gol, a casa mia Van Nistelrooy non può saltare così da solo in mezzo all'area. Può saltare da solo al massimo uno che arriva da dietro inserendosi, dico Sergio Ramos, grande scelta di tempo, grande elevazione, certo. In quel momento su un'azione veloce da sinistra nistelrooy nessuno lo riesce a prendere, ma guarda, Van Nistelrooy no. La Juventus ha preso un gol così da Hamsik, ed è uguale, sì, contro il Napoli, però Hamsik è uno che si inserisce e diciamo che i centrali, se non vengono protetti, possono andare in difficoltà. Certo. Van Nistelrooy è il totem centrale dell'attacco del Real Madrid, non può saltare da solo, e aveva il più vicino che era Molinaro, un metro e mezzo. Sì. Oltretutto a difesa schierata. Questo schieratissima. Questo poi non ha impedito alla Juventus di vincere meritatamente quella partita. Ma era giusto per dire che su 36 gol, insomma, anche questa Champions League, no, ma no, non è una novità di quest'anno, nella fase iniziale, in quella a gironi, è a sua volta fa parte del circo mediatico, come un altro evento di cui stavamo parlando fino a poco fa, più che di una cosa di grande spessore. Sì, nel senso che è bello e certamente il gol è il momento più alto, no, di una partita di calcio, però se ci si ferma semplicemente a vederli e a dire oh che bello, va bene. Se si guarda un po' più in profondità, insomma, non si può non notare che il periodo sia poco propizio per quanto riguarda le difese. Beh, ripeto ancora una volta, non stiamo parlando di svarioni, di sfortuna o di cose simili, stiamo proprio parlando di dettami tattici sulle marcature, sugli scambi degli uomini in mezzo all'area e tutta una serie di situazioni. Lo stesso gol di Del Piero, bellissimo, nasce da una triangolazione, anche qui tutto fatto molto bene. Credo che la difesa del Real Madrid avesse un paio di giocatori che erano fuori posizione, probabilmente uno è anche un campione del mondo, per cui insomma è successo questo. Certo, è una chiave di lettura critica, indubbiamente, una volta perlomeno si faceva, magari ogni tanto non è sbagliato riproporla. Un'altra chiave di lettura critica, e poi invece passiamo agli aspetti positivi o divertenti, credo possa essere quella del rendimento degli assistenti in queste due serate. Io credo che per quel che si è visto nelle prime giornate di campionato italiano, gli assistenti del nostro campionato, i guardaline, abbiano fatto o stiano facendo perlomeno, ma mai dare niente per scontato, un salto di qualità di rendimento notevole. Ho visto invece errori abbastanza dilettanteschi tra quelli che dovrebbero essere migliori di loro perché più selezionati. Sì, sì, tutto vero anche se selezionati su una base molto ampia, però è vero, la mancata segnalazione di fuorigioco di Ibrahimovic domenica sera, credo si chiamasse Calcagno il guardaline, è stata certamente una prodezza nel suo genere, cioè il fatto che il guardaline avesse correttamente visto che Ibrahimovic era in posizione regolare su un lancio da lontanissimo, quindi con un coefficiente di difficoltà molto alto. Insomma, nella partita di Manchester, soprattutto il primo gol è clamorosamente in fuorigioco, lì sinceramente è un errore proprio da matita rossa, e non è stato l'unico. Complessivamente sì, se prendiamo le prime giornate di campionato in Italia, il rendimento è mediamente molto più alto a livello di Serie A. L'errore sul primo gol di Berbatov e forse anche sul secondo è abbastanza grave, perché è situazione statica rispetto a quella che tu descrivevi invece di Ibrahimovic, e quindi è ovvio. Una calci da fermo. Certo, le cose belle le introduce Stefano da Udine, che scrive: che delizia per gli occhi e per gli amanti del calcio il primo gol di Messi. Io dico anche un altro paio di gol del ragazzino di origine slava, ma certamente il primo gol di Messi è una cosa... Sì, Barcellona è all'ottava vittoria consecutiva, esce da un momento nel quale Guardiola sembrava un po', come dire, vacillare o scricchiolare, e sta giocando un calcio delizioso con molti giocatori brevilinei, con molti giocatori verticali, con molti giocatori giovani. Non è un caso che in questa giornata di Champions League abbiano segnato Messi, non dimentichiamocelo che è ancora un ragazzino, però Bojan ha 18 anni, Ramsey anche meno, lo stesso Walcott è ancora un ragazzino, Ramsey dell'Arsenal, quindi c'è certamente dietro i grandi totem, i grandi giocatori, soprattutto i grandi attaccanti, c'è un bel ricambio, che poi non è più tale, perché il Barcellona questi li fa giocare subito, quindi vediamo una linea di tendenza che è decisamente opposta rispetto ad esempio a quella del Milan, che sta puntando sull'utilizzo di campioni molto celebrati, molto nominati e certamente molto più conosciuti rispetto al Barcellona, che invece sta facendo una politica decisamente diversa, perché non ci sono soltanto Bojan e Messi, ma insomma c'è una filosofia dietro questo gioco. Poi palla a terra e in verticale in Barcellona quando può giocare fa veramente paura. Gentile conduttore, scrive Andrea da Parma, perché ironizzare sull'arrivo di Beckham? Il Milan è anche un'impresa commerciale, con stima per me. Il Milan è un'impresa commerciale, benissimo. Pietro è un po' più greve, dice: non si dimentichi che l'idiozia non ha limiti, mi riferisco a chi compra abiti firmati solo perché i calciatori fanno da modelli. Leggermente più greve, ce n'è un'altra, diciamo più tecnica, ma li sto selezionando tra tanti. No, un altro ancora, Alberto: piano con Beckham, i suoi cross a rientrare sono davvero inarrivabili. Silvia invece dice: prima per finire la carriera si andava in Giappone o in Arabia, adesso si va al Milan. Torniamo invece alle coppe. Mi pare, Fabio, che la situazione dopo a metà cammino sia abbastanza delineata, e mi pare che ancora una volta ben pochi problemi per inglesi e spagnole. Forse l'unica che rischia, se non altro, di non vincere il girone è proprio Real Madrid. Certamente, perché la Juventus con 7 punti è praticamente passata, nel senso che avrebbe bisogno almeno di 2 punti nelle prossime 3 partite, perché a 9 punti è quasi impossibile non passare, soprattutto se l'ultima ne ha 1. Quindi il Real Madrid rischia di non vincere il girone. È anche vero che se noi consideriamo la vittoria della Juventus nell'ottica del girone è stata una grande vittoria, se la considerassimo nell'ottica di un ottavo di finale sarebbe una vittoria preoccupante, perché esporrebbe la Juventus al ritorno a una sconfitta 1-0. Real Madrid può subito rifarsi e può subito a risaltare avanti, quindi il Real Madrid ha il match point comunque sul suo servizio, però è vero, potrebbe non vincere il girone. Non c'è una squadra tra quelle pronosticate per un cammino lungo che in questo momento stia facendo fatica, e io mi sarei stupito al contrario, perché effettivamente la qualità media è decisamente bassa. Ci sono 3-4 squadre che sono capitate quasi per caso in questa fase. Devo dire che il girone più compromesso è il girone del Manchester United, dove il Manchester United e il Villarreal hanno 7 punti, Celtic e Alborg ne hanno 1, siamo nel campo dell'impossibile a parer mio, oltre che dell'improbabile. Perché Roma e Fiorentina possono ancora sperare, ammesso che tu pensi che possano ancora sperare? No, secondo me possono sperare certamente. Intanto la curiosità di questo turno di Champions League è dato dal fatto che chi usciva molto bene da un turno di campionato come l'Inter e come la Fiorentina è quella che poi ha fatto più fatica, e chi usciva invece con grandi difficoltà dal campionato, cioè la Roma e la Juventus, è quella che si è, pur con dei risultati diversi evidentemente, si è rilanciata. Beh, la Roma intanto è a 1 punto dal Cluj, che ha vinto all'Olimpico, e quindi costringerà la Roma certamente a non perdere e possibilmente o doverosamente anche a vincere. Però insomma la Roma non può pensare di non potercela fare, perché ripeto, il Chelsea ha 7 punti e non è ancora fuori dai giochi, perché se dovesse perdere un paio delle prossime partite potrebbe andare in difficoltà. Questo è l'unico vero girone complicato, perché l'ultima ha 3 punti e quindi vuol dire che possono passare ancora tutte e 4. Però la Roma ha in casa la partita col Bordeaux, in casa la partita con il Chelsea, e deve andare a Cluj. Diciamo che con 2 partite vinte all'Olimpico vorrebbe dire già arrivare a quota 9, non perdendo a Cluj avrebbe 10 punti, insomma 10 punti passi. È chiaro che la Roma non può più sbagliare, la Roma ha già perso 2 partite su 3, quindi ovvio. Ovvio che queste, cioè che le condizioni per sono concomitanze ai risultati altrui, ma soprattutto cominciare. Direi di più la seconda che hai detto, Gigi, nel senso che la Roma in questo caso è anche arbitra del suo destino, perché è vero. Se batte il Chelsea e il Bordeaux in casa, non cose impossibili, e non perde in Romania, passa in carrozza, per cui ho l'impressione però che il Chelsea, visto ieri sera, sia duretto da battere, perché ha una difesa molto organizzata. Ti dicevo della Fiorentina, anche la Fiorentina può passare, però qui siamo nel campo più della difficoltà, perché ha davanti 2 squadre, Bayern di Monaco a 7 e il Lione a 5, che insomma sono un problema. Però già se la Fiorentina batte il Lione in casa andrebbe a quota 5, dovrebbe battere anche il Bayern di Monaco, quantomeno non perdere contro il Bayern di Monaco e vincere poi con la Steaua, cosa non impossibile. No, deve fare la corsa sul Lione, perché a patto di batterlo in casa, questo è sottinteso, avrebbe una vittoria, un pareggio col Lione, e quindi chiudendo a pari punti sul Lione avrebbe gli scontri diretti a favore. Quindi la condizione è di vincere in casa contro il Lione per essere pari col Lione, minimo, e in vantaggio nel confronto diretto, e poi di non sbagliare le altre 2. Esattamente. Rapidamente, costume. Costume perché? Perché l'Atletico Madrid ieri sera, costume e cronaca nera, ha giocato regolarmente in casa contro il Liverpool, nonostante il campo squalificato, perché non c'erano i tempi per, e quindi sconterà prossimamente le 2 giornate. I tifosi dell'Atletico hanno fischiato forte sull'inno della Champions League, che è una novità tutto sommato, no? Perché in genere è un periodo di fischi per gli inni, no? Sta polemica Sarkozy-Platini e finché ce n'è, adesso anche l'inno della Champions League. Beh, sai, però in questo senso poi ci sta, nel senso che fischiare un inno nazionale è decisamente diverso rispetto che fischiare l'inno di un ente che non è certamente uno Stato come l'UEFA. La decisione l'ha presa l'UEFA, l'unico modo, ripeto, certamente colorito, ci sono vari modi per esprimere la propria opinione. Il fischio è quello più collettivo, è quello forse più semplice e meno impegnativo dal punto di vista mentale, e quindi è stato scelto questo. Devo dirti che l'inno della Champions League a me, soprattutto quando gli stadi sono pieni, mette ancora dei brividi, anche se ancora, cioè, relativi, nel senso che ormai il calcio lo sto vivendo un po' più dal punto di vista del lavoro che dal punto di vista delle emozioni, però quelle me ne dà ancora sentire l'inno della Champions. Sentirlo fischiato, cioè, certamente spiace, però ecco, non la considero una cosa gravissima. Chiuderei con te, non nei panni di ministro degli esteri, ma di uomo Sky, perché c'è una splendida dichiarazione di Cappon, direttore generale della RAI, che, come noto, nei giorni scorsi non Cappon, ma insomma la RAI ha perso a vantaggio di Sky i diritti delle Olimpiadi 2014 e 16. Qui invece si scende di molti molti gradini, si parla dei diritti TV della Coppa Italia, che verranno assegnati domani, e il direttore generale RAI, Claudio Cappon, dice: vinca il migliore. Si vede che non ha mai letto Rocco, evidentemente, questo, perché se dovesse vincere il migliore, che possa davvero essere la RAI, è discretamente improbabile. Grazie allora a Fabio Tavenni. A te Gigi, buongiorno a tutti. Appuntamento alla settimana prossima. Due ascoltatori già in linea. Un messaggio: Lorenzo dice: non legga solo gli sms negativi su Beckham. Beckham è un signor giocatore e l'ho anche consigliato uno come Capello. Lorenzo, ho letto volentieri questo messaggio come i due precedenti. Finora sono gli unici di segno più per Beckham, ma mi impegno a leggerli tutti. Quello che immediatamente segue a quello che ho appena letto, e cioè il suo, è firmato Silvio da Verona, e dice: ma i cross a rientrare per chi? Che Girardino l'hanno anche ceduto. Riccardo ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie. Dica. Per avermi chiamato. No, io mi volevo riallacciare un attimo al discorso della difesa, perché anche nel campionato italiano le squadre che costituiscono un po' una sorpresa al secondo posto sono quelle che poi hanno curato più la difesa. Anche l'Inter, che ha l'attacco atomico, spesso vince col golletto e poi ha una bella difesa e non prende gol, mentre le grandi che in questo momento arrancano sono quelle che hanno difesa disastrosa, come la Roma. O... Non a caso la miglior difesa del campionato per ora, dopo 7 giornate, è quella del Catania, e la seconda è quella dell'Udinese. Esatto, e quindi credo che curare la difesa non sia poi una bestemmia, ma no, questo... tutto sommato le vittorie si costruiscono sempre da una difesa attenta. La Juventus adesso ha avuto una difesa migliore, diciamo, oggi col Catania non perdeva un punto, probabilmente a Napoli ne faceva 3, non parleremmo qua di crisi della Juve o di Ranieri, che è traballante, ecco. Vorrei sentire la sua opinione. No, cioè, è questa, indubbiamente è questa. Poi, ovviamente, entro certi limiti, difesa, purché difesa non voglia dire rinuncia al gioco, se vuol dire appunto la cura di una parte importante, perché insomma il calcio si gioca su due fasi, no? Quella in cui la palla non ce l'hai e quella in cui invece la palla ce l'hai, e l'una è importante almeno quanto l'altra. Da Cagliari, Massimo, buongiorno. Buonasera signor Garanzini. Niente, volevo chiedere su Totti. Ieri ho visto la partita e mi è sembrato un pochino sottotono Totti. Volevo chiedere se secondo lei è solo questione di condizione fisica oppure, diciamo, il giocatore nella fase calante della sua carriera. E poi un'altra cosa su Beckham. Volevo chiedere, secondo lei, dove potrebbe farlo giocare Ancelotti, magari sulla destra, che fa qualche bel cross, che tolto quello secondo me non sa fare altro. No, non credo proprio che vedremo Beckham in mezzo al campo, come qualcuno stamattina ha ipotizzato. Lo si vedrà di tanto in tanto, io credo, da quella parte lì dove ha sempre giocato. Totti ha fatto fin troppo, a parer mio, ieri sera invece, perché non dimentichiamo che Totti è un lungo degente, che ha giocato una parte di partita con l'Inter, tra l'altro benissimo nel primo tempo, le uniche cose. In quella ventina di minuti finali del primo tempo si è visto, rivedendo Totti dopo tanti mesi, si è capito perché una volta di più Spalletti aveva costruito su di lui quel gioco splendido della Roma fino a quando è durato, ma soprattutto fino a quando c'è stato Totti. Ieri sera ha giocato una partita di puro sacrificio, è stato bravissimo, sia pure ancora a corto di condizione, addirittura per un'ora abbondante. Poi dopo è ovvio che È ovvio che ha cominciato a declinare, non è più nella fase ascendente della carriera ed è un combattente reduce da una serie di incidenti molto gravi. Del possibile arrivo di Beckham a Milano, sponda rossonera, si è occupato stamane anche il Sole 24 Ore con un ampio titolo a Milano la Griff Beckham e con un articolo di Giuliano Balestreri. Buongiorno. Buongiorno. Giuliano Balestreri, detto Milito per via della sua appartenenza al vecchio Sena. Il calciatore inglese ha iscritto, tra l'altro, e adesso andremo poi nei dettagli, muove un business da 130 milioni di euro. Ora, io sapevo che il calcio era conciato male, ma 130 milioni di euro come ci si arriva? Beh, la cosa più eclatante è che soltanto 4 milioni devono andare dall'ingaggio sportivo, tutto il resto è fonte e sponsor. Cioè 126 milioni li muove. Esattamente, esattamente. Il mercato, le griff della moda che se lo contendono, perché è un bel ragazzo, perché piace. Sì, abbiamo citato già qualcuno prima. Sì. Esatto, al punto che Armani gli ha fatto un contratto da 28 milioni di euro per 3 anni per la linea underwear. Gillette lo paga 50 milioni di euro per 5 anni per usare i suoi prodotti, per farsi la barba. Però ricordo che quando gli fece firmare quel contratto infierì molto su di lui, perché pretese che si rasasse anche il cranio. Assolutamente, povero, povero assolutamente. Ragazzo, infatti lui portava i capelli lunghi e in occasione del lancio del nuovo prodotto Gillette, famoso come porti i capelli, bella sì, più o meno, no? Eravamo. E tra l'altro la cosa curiosa, chi punta molto su Beckham, l'effetto Beckham a Milano, è Adidas, perché sperano di riuscire a vendere più magliette anche alle signore. In Milan ha parecchie tifose donne, si dice il 40% di 6 milioni, e l'effetto Beckham sperano di spingere ancora più in alto questa la soglia di gradimento femminile, cosa che con l'effetto Ronaldinho non è accaduta, perché diciamo che esteticamente... Questo l'ha detto lei, io non per questo prendermi responsabilità, perché poi magari ci sono anche Dolce Gabbani in ascolto, io non vorrei, per carità. Poi ho letto nella tabella, per l'appunto, che tu hai curato profumi, telefonini, operatori telefonici, Vodafone, Motorola, certo. Occhiali da sole, Police Sunglasses, gli paga 1 milione di euro per portare i suoi occhiali, poi la Pepsi. Insieme a Totti, tra l'altro, sono i gladiatori della concorrente Coca-Cola, che lo paga 3 milioni di euro all'anno. Insomma, sono cifre da capogiro. Marks Spencer, la catena inglese, gli versa 3 milioni di euro all'anno per sponsorizzare una linea d'abbigliamento per bambini addirittura, con la quale veste i figli avuti, certo, da Victoria Beckham. Tutto questo tu hai ricordato nel tuo articolo a fronte di una memorabile battuta di George Best, uno dei grandi del calcio inglese, che di Beckham disse a suo tempo, ma quando era nel fiore degli anni, non adesso che, certo, non adesso che è non lontanissimo dalla pensione, disse George Best: Beckham non sa tirare di sinistra, non sa colpire di testa, non sa contrastare, non segna molto, ma a parte questo mi sembra ok. E non aveva tutti i torti, perché dal 2000, quando disse questa frase, Beckham ha vinto 3 scudetti, di cui uno solo da protagonista, gli altri in panchina prevalentemente, e una Coppa di Spagna. Diciamo che per un giocatore che muove questa cifra è poco. Fondamentalmente non quindi è... il ticket qual è? È quello con questa famosa moglie, ma di cui si dice però che non si sa se verrà a Milano. Esattamente. Lei è in procinto di lanciare la sua nuova linea d'abbigliamento e sembra per il momento preferisca Los Angeles come vetrina a Milano, anche perché sembra, si parlava del suo arrivo sponda televisiva, si diceva che Mediaset sarebbe stata interessata ad averla nel suo parco conduttrici. Invece una possibilità è abbastanza remota, almeno all'inizio. I problemi sono la lingua, non conosce l'italiano. Chiaro, se la permanenza di Beckham si prolungasse oltre questi 4 mesi di cui si parla e si andasse fino al 2010, come sembra spingere anche Capello per averlo in nazionale, non è escluso che tra un anno magari si aprano le porte della TV. Dunque, rimettiamo un po' d'ordine. Allora, Capello sembra che abbia caldeggiato questa soluzione. Assolutamente. Tant'è vero, abbia fatto pressing su Beckham chiedendo di ridurre al minimo le pretese economiche. E infatti il giocatore aveva detto: i soldi non sono un problema. E dall'altro abbia anche caldeggiato fronte Milan chiedendo un favore, essendo vicino comunque alla dirigenza, certo, di accogliere il ragazzo per allenarsi e per poterlo vedere da vicino. Il ragazzo non è male. Questo è tutto quello che ho detto prima di Griffe e di Introiti. Senti, a proposito del ragazzo, ma siamo così sicuri poi che questa operazione vada in porto? Perché noi prima abbiamo dato un breve frammento di Gagliani in cui dice: beh, comunque andiamoci piano, non c'è ancora molto di fatto. tra la moglie che non lo segue e poi non c'era uno sviluppo da Los Angeles. No, esatto, esatto, questo è arrivato abbastanza inaspettato questa mattina. C'è l'uscita del tecnico dei Los Angeles Galaxy, Bruce Arena, che ha detto: no, la proposta è strampalata, non voglio che Beckham vada in Europa. Un'affermazione forte, perché insomma l'allenatore che si oppone al trasferimento in prestito dovrebbe far riflettere la dirigenza. Anche perché, scusami, ti interrompo un istante, qui non si tratta di fare i furbi in una trattativa, nel senso che non c'è trattativa. No, ufficialmente non c'è ancora stata trattativa. Non è che una cosa del genere è per alzare un prezzo. Assolutamente, esatto. È un prestito gratuito. Però diciamo che la voce del tecnico è di senso opposto a quella della dirigenza, che ieri ufficialmente non confermava, però scherzando, quando ho sentito i vertici dei Galaxy, mi ha detto: ma sì, ci prepariamo a studiare l'italiano per venire a vedere Beckham a Milano. Quindi la trattativa vera non esiste, però la volontà delle parti di concludere l'accordo... Ci sono ancora segnali contraddittori. Esattamente. Tant'è vero che si è inserito anche in questa finta trattativa virtuale il Portsmouth, squadra inglese, che ha detto: ma se saltasse il trasferimento a Milano, noi saremmo in prima fila per avere Beckham. Si parla, restiamo sull'impatto mediatico. Il pomeridiano, la Free Press pomeridiana, il Sole 24 ore, 24 minuti, scrive stamane, e sta per essere distribuita a Roma e Milano come ogni pomeriggio, scrive che addirittura c'è un ritorno di fiamma, è bastata la voce Beckham al Milan per un ritorno di fiamma dell'acquisizione dei diritti del campionato italiano da parte degli inglesi, che quest'anno invece non li avevano voluti. Assolutamente, infatti questo potrebbe essere un effetto positivo sulle casse della Lega Calcio e a catena sulla Serie A e sulla Serie B. Certo. L'effetto positivo invece sulle casse del Milan. Assolutamente. Mi pare che Galliani non sia stato a dire fin dall'inizio, fin da ieri, che trattavasi di operazione prettamente tecnica, no? Assolutamente. Ha detto chiaro che era un'operazione di sponsor. Lui ha parlato di un'operazione del calcio e anche sponsor, ha detto. Certo. Infatti facendo da eco a Ancelotti che ha detto: beh, sarà un piacere allenarlo. In realtà la cosa curiosa è che l'annuncio è arrivato all'indomani della perdita di 30 milioni registrata da Fininvest, la finanziaria della famiglia, certo, Berlusconi, causata dal Milan. Fondamentalmente la gran parte della perdita della finanziaria è dovuta alla mancata qualificazione del Milan in Champions, fondamentalmente. E l'effetto positivo... Quindi potrebbe essere anche questa operazione decisa in una risposta economica, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti si valuta... Ai malumori di Fininvest, no? Di Marina Berlusconi, che si dice non abbia gradito tantissimo una perdita così accentuata. È un momento poi difficile finanziariamente, il Milan che perde 30 milioni non fa certo felice il suo padrone, ecco. E infatti l'effetto positivo valutato è intorno ai 14 milioni di euro per soli 4 mesi. Per il Milan? Sì, per il Milan. È spaventoso quello che muove questo. No, infatti, così tanto che non è difficile immaginare che il Milan possa cercare di trattenerlo poi anche alla fine del periodo di pausa del calcio, del campionato inglese, in americano. Cioè, e strapparlo poi al Galaxy. Sì, esattamente. Lui ha un accordo col Galaxy che gli permette ogni anno di verificare la volontà delle parti di continuare il rapporto, quindi potrebbe liberarsi anche facilmente dal contatto con gli americani. Giuliano, sei stato prezioso come sempre, grazie dell'intervento a Giuliano Balestreri. Credo che questa vicenda continueremo a seguirla, perché non credo che si esaurisca qui, no? Visto tutto quello che Beckham muove e visto il clamore mediatico. Ho già degli altri ascoltatori prenotati, un messaggio. Jacopo da Vicenza dice: la nostra figurina con i dentoni ha già fatto 3 gol e 2 assist, ero strapagato Quaresma, tanto lei non leggerà questo messaggio come sempre, non so da cosa lo ricavi. In effetti quello che ha combinato, già quel poco che ha fatto Ronaldinho Firenze del Milan rispetto a Quaresma non ne parliamo. Non solo, ma se c'è, come alcuni lettori hanno segnalato nei giorni scorsi, lettori e ascoltatori, per esempio Laura, ho sotto un messaggio, dice: dell'operazione Quaresma l'assurdità vera è la cessione di Pelé, è che è sparito dal Milan, dall'Inter Pelé, che era un giocatore che mi era sempre piaciuto e che nel finale della scorsa stagione era molto cresciuto. Questo indubbiamente è una buona riflessione che ha fatto questa nostra ascoltatrice Laura. Torniamo in onda con il consueto ripasso di storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 ottobre 1949. Per il quarto anno consecutivo Fausto Coppi fa suo il Giro di Lombardia. L'uomo solo al comando non si smentisce, scatta sul ghisallo e si presenta in perfetta solitudine al traguardo milanese del velodromo Vigorelli. Con il successo nella classica autunnale, Coppi chiude trionfalmente la stagione della consacrazione internazionale. Nel 1949 il campionissimo si era infatti presentato al Giro di Lombardia dopo aver vinto Milano-Sanremo, Giro e Tour e aver conquistato al Mondiale di Copenaghen l'oro nella prova di inseguimento e il bronzo nella gara in linea. Non vi dico i messaggi che stanno arrivando su Beckham e dintorni, anche su come si potrebbe insegnare l'italiano alla signora, insomma c'è un pochino di tutto, ma anche qualcosina di più. Certo, riflettevo ascoltando la Marcor di Filippone, riflettevo che cos'era una volta il Giro di Lombardia, quando il calendario internazionale per l'appunto prevedeva, Non saprei dire se 15 o 20 o 30 corse l'anno vere, anziché 2000 come ce n'è adesso, e di vere molto ma molto poche. C'è in linea Fabrizio da Pescara, buongiorno. Buonasera dottor Garanzini. Sì. Volevo dirle, condivido con lei due giudizi generici, così generali sul calcio, del tutto che Maradona sia il più grande di tutti i tempi, con buona pace di Pelé, di Cruyff e di Stefano, e poi la sua grande simpatia che sempre l'ho sentita manifestare per il vecchio Paron Nereo Rocco. Mm-hmm. Ora, venendo a Beckham, questo giocatore cosa viene a fare in Italia? Questo qui, io una volta solo lo vidi in un campionato europeo calciare un rigore in una semifinale, mi sembra fosse in Portogallo, dove cicchettò la palla, una scena grottesca, lui cadde, la palla in tribuna, poi capelli verdi, poi azzurri, poi taglio una di skin, poi cortometraggio a luci rosse. Mi dica così simpaticamente cosa avrebbe detto Rocco se l'avesse avuto nella sua squadra. Credo che sarebbe intraducibile, però sa, Rocco era brillante, non era banale, credo che avrebbe trovato qualcosa di spiritoso, di diverso. Non sarebbe, io no, non credo che avremmo che si sarebbe esibito in una battuta che noi ci possiamo immaginare, perché mi creda, avendolo conosciuto, Rocco era molto più sottile di quanto poi invece non sia rimasto nella tradizione orale o scritta in qualche caso che c'è stata su di lui, e che verrà poi rinfrescata tra un po', perché a febbraio saranno 30 anni e verrà ancora una volta, come sempre, ricordato come si conviene. Passiamo a Lodi da Fausto, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, tenterò di essere il più breve possibile. Ieri ho sentito con piacere Osvaldo Bagnoli. Sì. E mi chiedevo, quando allenava l'Inter e gli hanno comprato Bergkamp, io mi ricordo un articolo della Gazzetta dove lui era andato addirittura in Olanda per conoscerlo quando ancora era dell'Ajax, tipo un bambino che non riesce a aspettare Natale per ricevere il regalo più bello del mondo. Siccome anche Bergkamp è sempre stato uno, lo chiamavano Mr. Class in Inghilterra, quindi assolutamente un professionista esemplare, come mai non è mai decollato, diciamo, il rapporto, non tra loro, ma proprio come mai non ha mai reso quello che poi ha reso in Inghilterra, nell'Inter? Grazie, buongiorno. Non saprei, Fausto, sinceramente non saprei, sono passati un sacco di anni. Io credo che in rapporto alle qualità e al fisico che aveva, questo non abbia poi fatto nemmeno in Inghilterra la carriera da fenomeno che gli si preconizzava da giovane. Poi ha fatto, indubbiamente, ha fatto molto, ma molto di più di quello che non gli era riuscito in Italia, ma in Italia era per l'appunto anche molto giovane. In nazionale non è stato quello che doveva essere, insomma è stato in parte un'incompiuta, ecco, pur avendo lasciato tracce di episodi, di singole partite, di gol meravigliosi, ma dire che abbia stregato le folle o lasciato una scia di quelle incancellabili dietro di sé, non direi, a dispetto dei mezzi che aveva. Antonello, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sono molto contento di parlare con lei, l'ascolto sempre in macchina, a casa e anche a lavoro. Però. Allora, volevo fare una piccola considerazione sull'Inter. Ho sentito dire in giro che questo è l'anno dell'Inter. Allora devo stare tranquillo perché non andrà oltre lo scudetto, no? Non ho capito la battuta, abbia pazienza, ma battuta è che comunque non, cioè l'Inter giocherà bene in questi anni durante il nel campionato italiano, ma comunque in Champions non si fa mai vedere più di tanto. Ma finora oggettivamente è andata così, mi pare, no? Che ci sono stati ostacoli spagnoli e inglesi. Per la verità, Liverpool sì, ma i due precedenti spagnoli nemmeno di primissima fila, che si sono rivelati troppo alti. Quest'anno staremo a vedere. L'arrivo di Mourinho e l'ulteriore sforzo economico, ammesso che si possa definire sforzo e non con altri termini, che l'Inter ha fatto quest'anno, sono stati fatti proprio in funzione di Coppa. Poi queste sono le intenzioni, i progetti e gli investimenti. Bisogna poi sempre vedere cosa, in che cosa riusciranno a tradursi. Abbiamo molte voci da ascoltare ancora, che però mi pare di capire non riusciremo, e quindi poi gireremo ai colleghi del giornale radio. Sentiamo Luciano dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buonasera Garanzini. Dica. Allora, volevo una spiegazione da lei, se riesce a darmela. Allora, io sono uno che ascolta molto la radio, so che lei è un professionista, ma non solo, è un fuoriclasse della radio. No, non dica queste cose, che non Luciano. E voglio sapere, allora, ascolto molto le partite per radio e anche ieri sera mi è capitato per l'ennesima volta che questi cronisti, non so con che ottica vedono le partite, perché io sentivo la telecronaca della partita della Roma, mi dicono che la Roma non meritava assolutamente di perdere, anzi meritava il pareggio, forse anche qualcosina in più. Guardo i giornali questa mattina, possesso palla 60% il Chelsea, 40% la Roma. Tiri in porta 6-0 nello specchio della porta per i Chelsea, tiri al di fuori dello specchio della porta 7 per i Chelsea, 3 per la Roma. Poi succede che a Milano Adriano gioca male, Ibrahimovic gioca male, l'Inter inguardabile. Di nuovo leggo i giornali, Adriano migliore in campo 7, Ibrahimovic determinante 6,5, le pagelle esaltavano tutti i giocatori dell'Inter. Ascolto un po' i commenti della gente che hanno visto la partita, la Roma il secondo tempo non ha superato la metà campo, l'Inter ha fatto un gol soltanto ma ne poteva fare 3 o 4. Allora voglio sapere questi radiocronisti come vedono le partite, oppure i giornalisti che sono allo stadio, che poi scrivono le pagelle, scrivono i giornali, commentano per le TV, come la vedono loro. Cioè, io vedo che per radio sembra che siano tifosi della squadra che stanno commentando. Ci sono cose più gravi nella vita, però è indubbio che ci sia, in qualche caso ci siano degli eccessi di tifo, ci siano degli eccessi di cassetta, di bottega, in qualche caso magari anche di incompetenza. Io credo che non sia una buona chiave di lettura quella di andare a vedere le statistiche in una partita, possesso palla o non possesso palla. Ho già detto in altre circostanze che il possesso palla della grande Inter viaggiava sul 25-30% a partita, però le vinceva tutte o quasi tutte, quindi quello non è certamente un parametro. Non è vero che l'Inter ieri sera abbia giocato una grande partita. Noi abbiamo una stampa così, la nostra stampa tende a esaltare quello che fanno le squadre di casa. La stampa inglese per esempio stamattina stronca il Chelsea nonostante la vittoria, perché dice che non ha giocato sto granché, in sintesi. Cosa vuole? Ciascuno, paese che vai, abitudini che trovi, lo impariamo anche da Beckham, no, mi pare. Filippo Aureggio in regia, Gigi Borghi in redazione, grazie a tutti dell'attenzione, vi lascio al giornale radio.